storie italiane. Una ricompensa per l'onestà. Molto tempo fa, in un villaggio lontano lontano, viveva Vincent. Vincent era un uomo onesto e un bravo pittore. Dipingeva pareti, barche e case e faceva il suo lavoro con onestà e diligenza. Vincent, ho bisogno di dipingere la recinzione. Deve essere fatto in fretta o si arrugginirà. Va bene, inizierò immediatamente. Ma c'è un problema. Non posso pagarti più che 2 monete di rame. Capisco che è troppo poco, ma questo è tutto ciò che ho. Se la recinzione dovesse arrugginirsi, sarà ancora più costoso. Io capisco le sue difficoltà, signora. E verniciare è il mio lavoro. Non bisogna mai dire di no al lavoro. Vincent era un uomo molto povero. C'erano notti in cui andava a letto affamato. Ma costi quel che costi, non aveva mai chiesto di più dai suoi clienti. Lavorava duro ogni giorno ed era soddisfatto di quanto guadagnava. Un bel giorno, un ricco uomo d'affari venne da lui per una visita. Lui e la sua famiglia avevano previsto di fare un breve soggiorno nel villaggio. L'uomo d'affari entrò nel villaggio con un carro davvero costoso e molti carri a seguire, pieni di frutti e vestiti. Tutti i cittadini guardarono con stupore la processione passare davanti a loro. Il giorno seguente, l'uomo d'affari chiese di Vincent. Mentre camminava verso la casa dell'uomo d'affari, Vincent incontrò il suo amico Tom. Ehi, Vincent, dove vai? Ciao, Tom. Sto andando a casa dell'uomo d'affari. Ha dei lavori per me. Davvero? Ascolta, lui è un uomo molto ricco. Questa è una buona opportunità. Devi farti pagare di più di quanto ti fai pagare dagli altri. È giusto così. E sono certo che non gli peserà a pagarti. No, Tom, non è giusto. Non posso farlo pagare più degli altri. Questo significa truffare. Se a lui piacerà il mio lavoro, allora potrà scegliere di pagarmi di più. Ma io devo essere onesto e dirgli il prezzo giusto. Io sono tuo amico, Vincent, e io rispetto la tua onestà. Ma l'onestà da sola non ti sfamerà. Tu lavori così duramente, ma la gente del villaggio non avrà mai abbastanza denaro per pagarti. Dammi retta. Dovresti chiedere almeno 5 monete d'oro per il lavoro che ha per te. 5 pezzi d'oro? No, non ho mai fatto pagare 5 monete d'oro a nessuno. Capisco le tue preoccupazioni, amico, e grazie per esserti preoccupato di me, ma me la sono sempre cavata con qualsiasi cifra abbia guadagnato. Bene, io ho detto la mia. Tocca a te andare avanti. Vincent salutò il suo amico e proseguì. Sapeva che Tom voleva il meglio per lui. Nel momento in cui entrò nel cancello della casa dell'uomo d'affari, rimase incantato. Non era niente di meno che un palazzo. Oh, ciao! Tu devi essere Vincent, il pittore. Sì, sono io, signore. Ha dei lavori per me? Oh, sì! Il custode della mia barca è andato via. Non tornerà prima di domani pomeriggio. Ma io ho bisogno che la barca venga dipinta. Saresti in grado di dipingerla stanotte? Sì, posso. Dov'è la barca? Inizierò immediatamente. Oh, ma non mi hai detto quanto mi costerà? Dipingere la barca ti costerà 4 monete di rame. Non posso chiedere di meno. 4 monete di rame? Tutto qua? Bene, non ti pagherei un centesimo meno di quello che hai chiesto. Puoi avere le 4 monete di rame subito. La barca è vicina al fiume. Chiamami quando hai finito. Vincent prese il denaro, andò al mercato e comprò la vernice. E senza sprecare un altro minuto, si diresse verso il fiume. Non appena iniziò a lavorare, si accorse che la barca aveva un grande buco proprio nel mezzo. Oh, questo potrebbe essere pericoloso. Devo ripararlo subito. Vincent tappò il buco ed iniziò a verniciare. Lui lavorò per ore senza cibo. Finalmente, la barca era dipinta. Andò a chiamare l'uomo d'affari per mostrargli la barca. Oh, ma questo è meraviglioso. Tu lavori bene, Vincent. Forza, prendi queste 4 monete d'argento. Te le meriti. Se avrò altro da verniciare, ti chiamerò subito. Sei un uomo generoso. Adesso ti devo lasciare. La mattina dopo, la famiglia dell'uomo d'affari partì per una gita in barca. L'uomo d'affari li salutò e tornò a casa. Come la raggiunse, vide il custode della sua barca camminargli incontro. Signore, siete arrivati con una settimana d'anticipo. Oh sì, la mia famiglia ha insistito per venire a vedere il villaggio. Sono appena partiti per la loro prima gita in barca. Cosa? No, dobbiamo richiamarli subito, immediatamente. Perché sei così preoccupato? Ho chiamato il miglior rematore per accompagnarli al villaggio. Tutto andrà bene. Lei non capisce, signore. La barca ha un buco proprio nel centro. La sua famiglia affonderà. Avevo intenzione di ripararla oggi. Cosa? No, mia moglie, i miei bambini. L'uomo d'affari e il custode si affrettarono verso il fiume, ma la barca non si vedeva. Cercarono per ore. James! Lily! Signora, ci sentite? Ma ancora nessuna risposta. L'uomo d'affari si inginocchiò e pianse. Che cosa ho fatto? La mia famiglia! Non li avrei mai dovuti far salire su quella barca. Proprio mentre era seduto lì a darsi la colpa, sua moglie e i suoi figli tornarono con la barca. Cos'è successo, mio caro? Perché piangi? Siete tutti salvi? Oh, ero così preoccupato. C'era un grosso buco nella barca. Pensavo di avervi perso. Non c'era nessun buco nella barca, signore. È come nuova. Sono così felice che siate salvi, ma non capisco come sia possibile. So per certo che c'era un grosso buco proprio nel centro della barca. Non ho avuto la possibilità di ripararlo prima di partire. Chi l'ha riparato? L'uomo d'affari pensò per un po', poi capì cos'era successo e immediatamente mandò a chiamare Vincent il pittore. Vincent arrivò a casa dell'uomo d'affari. Vincent! Prendi questa, amico mio. Che cos'è questa? Questa è la tua ricompensa. 100 pezzi d'oro. Cosa? Ricompensa per cosa? Ricompensa per la tua onestà e il tuo duro lavoro. Hai salvato la vita della mia famiglia, Vincent. Hai tappato il buco nella barca. Non era il tuo lavoro. E non mi hai nemmeno fatto pagare di più per quello. Ma, signore, 100 pezzi d'oro sono troppi per aver tappato un minuscolo buco in una barca. 100 pezzi d'oro non sono nulla in confronto alle vite che hai salvato. Vincent, prendile! Vincent non poté credere al suo destino. Fino a ieri era un pittore che poteva guadagnare quel tanto che bastava per sopravvivere. E oggi possedeva l'oro! Da quel giorno in poi, Vincent non dormì mai a stomaco vuoto, perché aveva guadagnato la ricompensa per la sua onestà. Fine.